C'è un ultimo impegno che voglio oggi affermare, è quello di cambiare anche come associazione delle imprese. Confindustria compirà 100 anni nel 2010. È un'istituzione forte e credibile, ai massimi storici per numero di associati. Ma anche noi abbiamo bisogno di riforme per rispondere sempre meglio alle nuove istanze di rappresentanza e di servizi che provengono dalle imprese. La modernizzazione deve essere un obiettivo costante, certamente per primi per noi.